Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Riprende con il mese di settembre anche lo spazio settimanale realizzato in collaborazione con la Caritas di Padova, ma con uno sguardo ovviamente non solo al territorio padovano, grande, esteso, ma pur sempre limitato rispetto a tutto quello che succede in Italia e nel mondo. E proprio all'Italia guardiamo, abbiamo segnalato negli scorsi anni spesso iniziative di solidarietà per catastrofi ed eventi naturali negativi che si sono verificate in diverse parti del mondo. Questa volta, come sapete, tocca a noi, tocca all'Italia. Il pianeta Terra è la casa comune di tutta l'umanità. Anche l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, ricorda che c'è un legame forte, imprescindibile, tra uomo e natura. I tragici eventi che hanno colpito il nostro paese, appunto col terremoto del 24 agosto, hanno riproposto con forza il tema della prevenzione, della responsabilità. È un argomento che riprenderemo spesso nei nostri approfondimenti anche al di fuori della rubrica della Caritas. Il direttore di Caritas italiana è stato spesso in visita in questi giorni appunto nei territori terremotati. Dobbiamo sempre ricordarci, come ha fatto il vescovo di Rieti Monsignor Domenico Pompili nell'omelia dei funerali ad Amatrice, il terremoto non uccide ma uccidono le opere dell'uomo. Serve quindi uno sforzo collettivo di ricognizione, revisione e un impegno individuale, ciascuno nel proprio ambito ma avendo presente la portata globale del compito, nella certezza che, come ha detto l'altro vescovo, il vescovo di Ascoli Piceno, Monsignor Giovanni D'Ercole, il terremoto, come la malattia, il dolore e la morte, possono strapparci tutto eccetto l'umile coraggio della fede. Ricordiamo poi che tra meno di due settimane, il 18 di settembre, ci sarà la colletta nazionale indetta dalla CEI, coinciderà con la conclusione del congresso eucaristico nazionale che si svolgerà a Genova, e la volontà è stata proprio quella di non indire subito una colletta. L'ha fatto la Protezione Civile ed è opera meritoria, anzi quello è di fatto il principale canale tra quelli ufficiali che sono stati attivati, e fino al mese di settembre sarà attivo. La Chiesa italiana ha voluto aspettare perché poi nelle cronache, nell'attenzione, succede ed è cosa naturale che magari a distanza di un mese, 20 giorni, due mesi dal terremoto, quasi nessuno si ricordi più di quelle zone colpite. Allora, proprio per questo, il 18 di settembre in tutte le parrocchie italiane ci sarà una raccolta fondi, sarà quella delle offerte nel corso delle messe festive, ma l'auspicio, appunto, come ha aggiunto lo stesso direttore di Caritas Don Francesco Soddu, è che si moltiplichino le attività di animazione e sensibilizzazione delle comunità locali. E cito, lo approfondiremo meglio questo evento, cito il piatto di pasta matriciana, appunto solidale, un'iniziativa a livello nazionale di cui noi parleremo la settimana prossima a livello regionale. Torniamo al tema dell'ambiente, il messaggio dei vescovi per l'11ª giornata nazionale per la custodia del creato, che è stata pochi giorni fa, il 1° di settembre. La misericordia del Signore per ogni essere vivente, questo era il titolo del messaggio, un invito in quest'anno giubilare a vivere sia nell'esperienza di fede che nei comportamenti quotidiani la dimensione della misericordia divina. È necessario dunque l'impegno di tutti per rendere concreta una vera alleanza tra il nostro unico pianeta e l'umanità. Occorre un cambiamento degli stili di vita personali, ma anche un'incisiva azione collettiva e una vigilanza costante. È stato pubblicato anche un dossier da Caritas Italiana con dati e testimonianze. Il titolo: Per un'ecologia umana integrale, salvare il pianeta, salvare i poveri, salvare l'umanità. Pensate che tra il 2008 e il 2014 oltre 157 milioni di persone, quasi come tre Italie, sono state costrette a spostarsi per eventi meteorologici estremi. Ci sono le migrazioni economiche, ci sono le migrazioni per guerre, ci sono anche i migranti a causa dei cambiamenti climatici. Famiglie e comunità devono abbandonare le proprie abitazioni, soprattutto tempeste e alluvioni. È successo in questi giorni, domenica, nel Bellunese, che per una pioggia molto forte c'è stata una frana e una decina di famiglie sono state evacuate. Ecco, anche loro nel loro piccolo sono stati, magari solo per poche ore, ma dei profughi. Tempeste e alluvioni sono l'85% delle cause delle migrazioni per questioni climatiche, e a seguire ci sono i terremoti. L'Asia e la la regione al mondo più a rischio catastrofi, perché il 70% delle vite umane perse a causa dei disastri è proprio lì in questo grande continente. Ma anche l'Italia, come ben sappiamo, ha urgenza di mettere in atto strategie di adattamento rispetto alle conseguenze dei cambiamenti del clima che sono già in corso. Ripeto il titolo, potete cercarlo sul sito caritas.it, il titolo del dossier: per un'ecologia umana integrale, salvare il pianeta, salvare i poveri, salvare l'umanità. Questo come riferimento, appunto, con tutti gli approfondimenti. Ricordo ancora domenica 18 settembre la colletta, la raccolta di offerte nazionale per le popolazioni terremotate del centro Italia in tutte le parrocchie. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.